24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 17 minuti di questo venerdì 10 aprile inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezzi e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio con le vostre voci. Ci potete raggiungere anche all'800-24-00-24 se volete intervenire in diretta. Poi torneremo martedì, ci fermiamo per il giorno di Pasquetta. Maria, ci volevi parlare di Macron? Guarda, no, volevo prendere a pretesto il fatto che ieri il presidente francese, contro i consigli di molti suoi ministri e sicuramente in controtendenza con una parte dell'establishment scientifico francese, si è recato a Marsiglia è andato a trovare il discusso professor Jaoul, quello che crede che la clorochina possa essere una efficace soluzione nella guarigione dal Covid-19. E il professore di Marsiglia gli ha portato degli studi recenti effettuati su un migliaio di pazienti e Macron comunque ha dato questo segnale, un segnale di controtendenza, cioè invece di preoccuparsi di quello che avrebbe detto la comunità scientifica molto scettica sui risultati della clorochina, invece di preoccuparsi anche di quello che avrebbero detto i suoi ministri o i giornali, ha preso e è andato. Mi ha fatto un po' riflettere questo, perché in tempi in cui servono delle decisioni veloci occorre forse essere anche flessibili, no? Un altro segno di flessibilità, per esempio, mi è sembrato quello della FIOM, del sindacati, che hanno raggiunto un accordo con Fiat, con FCA, stabilendo che a certe condizioni di sanificazione degli ambienti, di garanzie sanitarie per i dipendenti, le attività potranno riprendere nell'azienda. Anche qui un segno di flessibilità. Allora, noi italiani siamo flessibili. In pochi giorni le aziende che producevano abiti si sono messe a produrre camici per i medici, mascherine. Non ci manca, questa è una nostra qualità. Bisogna avere un altro aspetto, avere il coraggio anche di fare cose che prima non avremmo fatto, che pensiamo di essere contestate, possano essere contestate, perché questo sarà il periodo in cui bisognerà pensare, come dicono gli inglesi, out of the box. Chi è capace di mettere a punto un progetto che anticipi la realtà. Se no, se continuiamo a essere fermi sulle nostre posizioni di prima, e ce la vedremo veramente male. Sono rimasti parzialmente fermi sulle loro posizioni i paesi europei, anche se l'esito dell'Eurogruppo alla fine è un esito, per come la vedo io, è da bicchiere mezzo pieno. Sentiamo il presidente dell'Eurogruppo Carmelo Lauricella. Today we agreed to establish pandemic crisis support. Insomma, si raggiunge un accordo che ha degli aspetti interessanti. Ci sarà la possibilità, solo la possibilità, di utilizzare il famoso fondo salva stati, il MES, però vincolato alle spese sanitarie o correlate a quelle sanitarie, quindi non ci saranno le condizionalità. Non ho capito perché non ci saranno le condizionalità strutturali. Ma non ho capito perché una parte pensa che poi l'Italia non vi farà ricorso, come se temesse che anche accedendo al fondo di stabilità che non pone condizioni sugli investimenti per la sanità, poi alla fine ci possa essere chiesto qualcosa in cambio. Ma guarda, questo sarà un punto da accertare. Maria, è una questione di nome. Se si fosse chiamato, se gli avessero cambiato nome, lo avessero chiamato Pippo e avessero messo quegli stessi soldi in questo fondo e avessero dato la disponibilità a utilizzarli per le spese sanitarie, non avrebbe protestato nessuno. Il MES è diventato una questione politica, come gli eurobond sono una questione politica ovviamente per tedeschi e olandesi. Cioè non si può dire così, Beh, se lo dici in un altro modo va bene, insomma infatti, si può fare. I francesi, che sono più diciamo pragmatici ma anche astuti, invece di chiamare eurobond hanno piazzato un recovery plan sul quale si spera che alla fine i presidenti del Consiglio, i capi di Stato e di Governo si accorderanno, perché quel recovery plan proposto dal ministro dell'economia Bruno Le Maire ci aiuterebbe. Sì, è un piano più di medio termine, si deve ancora decidere come sarà finanziato e non è escluso in realtà che poi venga finanziato con una condivisione, per così dire, del rischio, che poi vuol dire in sostanza debito europeo. E quindi, come dire, sul fronte, per gli appassionati di Corona Bond e di Euro Bond, non tutto è perduto, mettiamola in questo modo. Vincenzo Boccia, presidente Confindustria, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, prego Maria, vai. Buongiorno, buongiorno Presidente Boccia. Abbiamo un po' sintetizzato quelle che finora sono le misure sul tavolo, no? C'è la misura, il meccanismo da 100 miliardi per il supporto ai disoccupati, il SURE, ci sono le linee di credito del MES, del Fondo Salva Stati, per le spese sanitarie, queste senza condizioni, ci sono i crediti alle aziende e poi appunto sullo sfondo c'è questo recovery plan, la proposta francese che tanto ci servirebbe. Senza questi fondi molto difficilmente le aziende italiane saranno messe in grado di ripartire velocemente. Se lei dovesse dare un voto da 1 a 10 su quanto è stato fissato per ora dall'Unione Europea, che voto darebbe? Quanto la soddisfano le prime misure assunte a Bruxelles? Daremmo un 7, mi spiego perché. Intanto comincia a esserci una consapevolezza in chiave europea, perché qui non è solo una questione italiana, è anche una questione europea. E occorre avere chiaro di combattere due battaglie, due guerre, se così possiamo usare questo termine, che di fatto è una al virus e ai contagi e l'altra ad evitare che una recessione che purtroppo subiremo non diventi addirittura depressione, come indica Draghi. La consapevolezza in chiave europea, grazie anche all'asse franco italiano e spagnolo, perché questo è vero, che ha contribuito a dare una trazione diversa, comincia a dare un primato alla politica europea. Perché si è passati in questi giorni dal dibattito sugli strumenti al dibattito sui fini, cioè cosa dobbiamo fare, da cui farne derivare strumenti e risorse. Qui serve sia il MES senza condizioni sia gli Eurobond, come indicavate prima. Perché? Perché noi abbiamo tre fasi davanti a noi. Una, garantire la liquidità di breve alle imprese europee, quindi italiane, per la sopravvivenza economica data la situazione di emergenza. La seconda è quella di cominciare a pensare a come riaprire con un rallentamento compatibilmente con le indicazioni della comunità scientifica, quindi un ritorno alla graduale normalità. E la terza è compensare con una forte operazione di investimenti pubblici europei, purtroppo la domanda privata che ripartirà, ma ripartirà gradualmente. Quindi gli Eurobond serviranno per una massiva operazione di investimenti pubblici, i fondi del MES serviranno invece per governare la sopravvivenza economica dei fondamentali economici europei e il fatto che la politica europea comincia a prenderne consapevolezza è un elemento sicuramente importante. Il problema del nodo risorse si pone nel senso che non sappiamo quanto dura questo periodo, quindi le risorse possono sembrare tante, potrebbero anche essere poche, dipende dalla durata della fase del progetto. Ha letto anche lei, Presidente, nelle conclusioni dell'Eurogruppo appunto un'apertura alla condivisione del debito o, come dire, da questa parte abbiamo visto il bicchiere un po' troppo mezzo, un po' più che mezzo pieno? No, guardi, qui c'è un aspetto in cui bisogna, come dire, chiarire due cose. La prima è che tutti gli stati purtroppo dopo questa fase ne usciranno con un incremento del debito. Un incremento del debito purtroppo oggettivo, dato dalle cause legate all'emergenza e non sicuramente da un'allegra spesa ordinaria dei singoli stati. Quindi primo elemento. Il secondo è che l'Eurobond non dovrebbe essere un elemento di condivisione, cioè ognuno dovrebbe pagare la sua parte, ma con dei collaterali cosiddetti di garanzia legati alle infrastrutture che realizzeranno i singoli paesi. Faccio un esempio: se si emettesse un un euro bond da 1.000 miliardi o da 3.000 miliardi, di cui n centinaia di miliardi a favore dell'Italia, questi dovrebbero essere collegati come garanzia alle opere pubbliche che l'Italia realizzerà in funzione di queste risorse. Questo comporterà una garanzia collaterale all'emissione dell'Eurobond, che andrebbe pagato su un periodo di lunghissimo termine in modo da rendere sostenibile, e questo comporterebbe il fatto di non creare un debito insolito tra i vari paesi. Ognuno si paga la sua parte, ma usano uno strumento comune che è l'Eurobond. Occorre, quello che abbiamo detto da tempo, ragionare non a legislazione vigente, avere una capacità innovativa in questo momento e visionaria dell'Europa, e usando strumenti come questi si può anche evitare l'idea del debito insolito, premesso che chiaramente il maggior debito che ogni paese realizzerà da questo momento in poi andrebbe pagato anch'esso in un lunghissimo termine, visto e considerato che l'elemento oggettivo non dipende dalle politiche ordinarie dei singoli stati. Maria, prego. Presidente Boccia, si parla molto di ritorno in azienda, tutto il nord lo chiede pressantemente e ce lo chiedono anche i produttori tedeschi, senza il nostro indotto fanno fatica anche loro. Il punto, mi sembra di capire, è garantire, no, le condizioni di sicurezza sanitaria ai dipendenti. È stato raggiunto un accordo tra FCA e sindacati che un po' diciamo realizza quanto aveva anche in passato, nei giorni scorsi, proposto un imprenditore veneto, Alberto Baban, ne avevamo parlato qui. Obbligo di mascherina per tutto il personale, rilevazione della temperatura prima dell'ingresso in azienda, mantenimento della distanza di almeno un metro, sanificazione degli ambienti. Le chiedo due cose. Saranno le aziende anche piccole in grado di garantire queste misure ai loro dipendenti? E secondo, proprio cercando di pensare in maniera flessibile, è tenuto conto che il coronavirus purtroppo potrebbe tornare anche in autunno, come si farà per i trasporti? Perché appunto la flessibilità richiede la necessità di pensare avanti e di pensare in maniera diversa da come si pensava prima. Esatto, lei ha perfettamente ragione. Intanto è evidente che tutta l'Italia vuole riaprire, tra virgolette, l'interesse dei lavoratori, delle imprese, delle banche, dello stesso governo. Ieri abbiamo avuto modo di confrontarci con il governo, con le altre associazioni, con i sindacati convocati dal governo. Il punto è esattamente quello che dice lei. È evidente che nelle imprese i presidi sanitari saranno rispettati, tra l'altro siamo stati i primi, tra virgolette, come associazioni insieme agli altri sindacati, a individuare un protocollo cogente da rispettare nelle singole imprese. Il problema non è più nelle singole imprese, ma capire, e a partire da oggi chiaramente il Premier in questo ci ha rassicurato, perché dovrebbe essere oggetto di confronto della comunità scientifica e della comunità economica per evitare appunto che queste due cose non viaggino insieme, come invece fare in modo che l'operazione di mobilità delle persone che poi arrivano in azienda siano garantite se stesse dagli elementi di sicurezza, perché evidentemente le mascherine e tutti gli altri presidi sanitari all'interno della fabbrica vanno benissimo, ma se per arrivare poi nella fabbrica c'è una dimensione di rischiosità, questa va affrontata con un atto di grande correttezza e onestà intellettuale. Allora, questo aspetto, che prende due consapevolezze che ieri sono messe con chiarezza ed è stato fatto secondo noi un grande passo avanti, e cioè quello che purtroppo dobbiamo accettare di convivere con il virus, il che non significa accettare le sue rischiosità, ma metterci in sicurezza aprendo un confronto serrato per un graduale rallentamento, come dire, e rientro della capacità di produzione del paese e dell'Europa all'interno di un contesto organico che non può essere, ai noi, solo la fabbrica, purtroppo, e quindi anche il contesto esterno. Come si fa questo? La comunità scientifica insieme agli esperti di economia dovrebbero confrontarsi e poi insieme al governo le parti sociali per costruire un modello italiano che può diventare il modello europeo, perché è evidente, come dice lei, che noi dobbiamo evitare il ricontagio nel momento in cui si rientra o si riesce, e chiaramente mettere in sicurezza le persone. Per farlo occorre dibattere, confrontarsi e trovare trovare soluzioni, perché non è che possiamo andare avanti stando a casa per mesi o per anni per evitare il default economico delle imprese del paese, il che non significa che l'economia deve prevalere sulla salute, ma significa avere la consapevolezza di dover affrontare questa questione, affrontarla sul come, sul cosa, chiaramente sul quando la curva sarà discendente, per mantenerla tale e portarla a zero. In sostanza, avere una strategia. Magari ne riparliamo tra un attimo, abbiamo una breve pausa, Presidente, e poi parleremo anche del decreto. Io vi leggo un messaggio di un ascoltatore che dice: buongiorno, per accedere al finanziamento di 25.000 euro la nostra banca ci dice che sono necessari i decreti attuativi per capire quali siano le caratteristiche, le regole operative che le banche dovranno seguire per attingere a queste garanzie. Come capite, il grande tema e la grande preoccupazione delle imprese è questo decreto liquidità che dà 400 miliardi di garanzie, insomma, erogherà, ci consentirà di avere la liquidità all'erogazione dei crediti presto? A tra un attimo. Finalmente, dopo tre giorni, abbiamo avuto il testo del decreto, lo trovate tra l'altro, se volete, sul sito del Sole 24 Ore. Presidente, siete soddisfatti o temete ancora che i lacci burocratici dell'erogazione, insomma, ci siano dei lacci burocratici che impediranno l'erogazione del credito rapida nei confronti delle imprese? Confidiamo di no. Il decreto è stato bollinato, come si è detto, l'altro ieri sera, quindi occorre dare un attimo il tempo che diventi operativo, e chiaramente, come lei indicava, la immediatezza dell'erogazione della liquidità è un fattore determinante per l'economia e per le imprese del Paese. Abbiamo avuto rassicurazioni dal governo che se ci fossero criticità sia in termini di procedure che di risorse, il decreto sarà implementato, speriamo di no, perché significherebbe che appunto funziona così, funziona bene. Diamo il tempo chiaramente di recepire queste cose nell'immediato, questione di giorni chiaramente, non di mesi, perché il punto essenziale e l'obiettivo di tutti è far arrivare la liquidità alle imprese del paese, tutte piccole, medie e grandi di ogni settore, per appunto garantire quella sopravvivenza economica di cui abbiamo parlato e poi prepararsi alla fase 2. In questo momento bisogna dare atto che la entità di risorse è sicuramente importante, se bastano meno purtroppo non lo sappiamo, perché dipende anche qui dalla durata dell'emergenza. Vediamo un attimo nei prossimi giorni se ci saranno criticità o meno, noi chiaramente ci auguriamo di no, ma se ci fossero le segnaleremo al governo. Ieri proprio il Presidente del Consiglio e il Ministro Gualtieri hanno anticipato a tutte le parti sociali che dovessero esserci, sono disponibili chiaramente a confrontarsi per evitare errori e criticità. Il nodo credo che sia un po' la reazione anche delle banche, perché tutta la discussione che c'è stata sulla garanzia al 90%, all'80%, al 100% vede le banche coinvolte. Avete avuto, come dire, contatti, immagino, no? Anche con i vari istituti di credito per capire come intendano agire. I 25.000 euro, quelli vengono dati subito senza nessun tipo di garanzia, ma per i crediti, i debiti che le aziende dovranno fare e che saranno più sostanziosi, dipende un po' da quanto tempo l'istruttoria dell'istituto di credito impiegherà. Sì, questo è vero. I 25.000 euro sono quelli con la garanzia al 100%, gli altri al 90%. Che anche se vogliamo un elemento positivo per evitare azzardi morali e quindi assumersi una rischiosità anche da parte del sistema bancario, perché in tutta questa fase l'operazione qual è? Che c'è un fondo di garanzia che garantirà la liquidità, ma il debito che ne deriva da questa liquidità nel momento attuale a breve, che poi sarà trasformato in medio termine, sarà accollato dalle singole imprese, quindi anche le imprese e noi usciranno da questa fase con più debito che dovremmo pagare chiaramente in medio termine. Ora la partita è tutta sulla sfida della capacità del sistema bancario di lavorare queste istruttorie quanto prima, ma loro conoscono i loro clienti, ieri abbiamo sentito il presidente dell'ABI che ci ha assicurato della volontà e della capacità del sistema bancario di lavorare quanto prima e con immediatezza queste pratiche, se questo flusso dovesse andare come immaginiamo, evidentemente le premure, diciamo, e le preoccupazioni che abbiamo dovrebbero essere fugate. Uso il condizionale perché va verificato step by step, chiaramente, e lo verificheremo nei prossimi giorni. Ma da quello che ci dicono, da quello che avvertiamo, da come il sistema bancario è orientato nella conoscenza dei propri clienti, perché in realtà questo è, tutto questo dovrebbe avvenire in tempi veloci, nell'interesse di tutto, per le stesse banche, tra l'altro. Presidente, come ci diceva prima, mi permetta di tornare al tema precedente, quello della riapertura o della cosiddetta fase 2, insomma chiamiamola come vogliamo, insomma il tema centrale è quello alla fine, no? Perché uno può dare tanta liquidità quanto vuole, poi però serve che a un certo punto le imprese ripartano, ricomincino a pagare i dipendenti, o meglio ricomincino a far lavorare i dipendenti, a lavorare con i fornitori e via dicendo. Si è posta, mi pare, in queste ultime ore ancora con più forza, ma già dall'inizio di questa crisi, una questione che lei già sottolineava, che è questo problema, no? L'economia da una parte, la salute dall'altra, non nuovo a dire il vero in questioni di dibattito pubblico, penso all'Ilva, tanto per fare un esempio. Come vi state ponendo in questa fase? Perché insomma sono arrivate anche un po' di accuse nei vostri confronti. Ma ci stiamo ponendo con un linguaggio di grande responsabilità e non di sciacallaggio. Qui non c'è un'idea di un'economia che deve prevalere sulla salute. Noi stiamo ponendo un'altra questione, che è quella di salvaguardare la salute, che è la priorità, ma di essere attenti a evitare un default economico del Paese e delle nostre imprese. Dietro le imprese ci sono preoccupazioni dei lavoratori e degli imprenditori, ci sono rischi, ci sono garanzie, fiduzione. Gente che in anni di storia del paese, dalla ricostruzione a oggi, vede una incertezza di futuro perché non sa quando potrà aprire. Questo non è colpa di nessuno, data dall'emergenza. Questo determina preoccupazione nel nostro mondo, anzi, che noi dobbiamo trasformare in speranza e incertezza con appunto un tavolo aperto con tutti i parti sociali, compresi i sindacati, nella volontà di riaprire su quelle regole che abbiamo detto prima all'interno di questo quadro organico. Nessuno ha mai immaginato che l'economia prevalga sulla salute. Quel linguaggio non ci appartiene, quel linguaggio è un linguaggio non corretto e anche non rispettoso di un mondo come il nostro, che ha premura e preoccupazione del futuro e che non vuole assolutamente prevalere sulla salute. È un mondo di grande responsabilità, le preoccupazioni che esprimono i nostri colleghi, noi come Confindustria. Il fatto che qualcuno sintetizzi con una frase che diventa essa stessa volgare, che ha vinto la salute sul profitto, non è questo. La salute deve vincere all'interno di un quadro di responsabilità di ceto dirigente del Paese. E all'interno di questo quadro di responsabilità è doveroso preoccuparsi della centralità del lavoro, del riassorbimento dell'occupazione finita la fase emergenziale e di come affrontiamo i prossimi giorni. Questo è il punto essenziale. Altri linguaggi non ci appartengono, non ci apparterranno e ci amareggiano. Maria, prego. Presidente, si fanno previsioni sul dopo, su quello che succederà a livello globale. Centinaia di milioni di disoccupati potrebbero purtroppo essere l'immediato futuro. E anche da parte di imprenditori, anche grandissimi americani, dai nomi famosi, si dice: guardate, sarebbe un errore non tenere conto che il Covid-19 ha cambiato molte cose e dovrà cambiare anche il capitalismo. Lo dice peraltro in un'intervista questa mattina a Repubblica anche un imprenditore italiano famoso, Diego Della Valle. Secondo lei, quale potrebbe essere un primo segnale per cui si può dire che il capitalismo pre-Covid-19 non sarà più lo stesso? Ma direi che la società non sarà più lo stesso, altro che il capitalismo, e quindi all'interno della società anche, tra virgolette, il capitalismo cambierà molto. Ci abitueremo a lavorare molto di più in smart working, il che non significa non avere relazioni personali, ritorneremo un po' più ai fondamentali della nostra vita e del paese e dell'Europa. Speriamo di ricostruire, di riscoprire un senso e spirito di comunità data l'emergenza e non rancore, pregiudizi e preconcetti e in chiave italiana e in chiave straniera. Tutto questo determinerà chiaramente un'idea diversa, tra virgolette, di società, da cui ne deriverà una reazione dal punto di vista delle imprese che dovranno reagire a questo nuovo mondo, riposizionarsi, sia in termini organizzativi, sia in termini di prodotti e di servizi. Cosa ci aspetta il futuro è la parte, come dire, di preoccupazione che diventa però la sfida dell'Italia, del mondo, degli imprenditori italiani che non vogliono mollare. Occorre però un percorso, perché senza un percorso, senza sapere come affrontiamo il dopo, non tanto il quando, che non dipende da noi, dipende dalla curva, ma capire che quel giorno siamo già pronti per ripartire e affrontare di nuovo il mondo da grande paese esportatore nel difendere gli interessi del nostro paese è una sfida di tutti noi. Non c'è una questione del capitalismo come cambia, c'è una questione della società planetaria come cambia dopo il Covid e come conviverà con questo virus ai noi e in quanto tempo arriviamo a determinare un vaccino e a sconfiggerlo definitivamente. Grazie al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Buona Pasqua. E buona Pasqua ovviamente. Grazie a voi, auguri a tutti voi, grazie. Allora, cara Maria, sentiamo qualche voce di ascoltatore sul MES, anche su altri argomenti, va? E poi chiudiamo con Davide Oldani, tra un attimo. Il MES ha solo delle regole, punto e basta. Se lei accede a quel fondo, dovrà successivamente attenersi alle regole del MES. E quindi, caro amico mio, lei avrà una situazione in Italia come quella della Grecia. Anche ieri hanno dato due numeri, 4.000 nuovi contagiati e poco più di 1.600 nuovi positivi. Poi vai a vedere e i poco più di 1.600 nuovi positivi sono i nuovi contagiati al netto dei poverelli che sono deceduti e dei guariti. Ma che senso ha dare questi due numeri? Il dato reale è che ieri abbiamo avuto circa 4.000 nuovi contagi. Dobbiamo essere consapevoli e responsabili che oltre 130 persone negli ospedali sono morte per curare tutti gli altri e soprattutto che si può evitare di andare al supermercato due volte al giorno, ma al tempo stesso dare delle procedure per far riaprire le aziende, procedure magari severe, rigide, da rispettare, ma bisogna mettere delle regole e dare un orizzonte. L'orizzonte, questo è il tema. Sul MES, fammi solo dare una precisazione, Maria, poi ti do volentieri la parola. In realtà, proprio nel comunicato dell'Eurogruppo c'è scritto appunto che ci saranno dei cambiamenti proprio anche dal punto di vista, diciamo così, della legislazione europea che riguarda il MES, esattamente per venire incontro a questa esigenza. E quindi l'accesso al Fondo Salva Stati sarà possibile con come unica condizionalità di utilizzarlo per le spese sanitarie, in sostanza. Che mi sembra una possibilità che potrebbe essere anche adottata. L'Italia non lo farà perché politicamente è insostenibile. Davide Oldani, chef stellato, il suo ristorante Do di San Pietro all'Olmo è la nostra. Buongiorno a tutti. Ciao Davide. È la voce che accompagna Pierluigi Pardo in Mangia come parli su Radio 24, lo conducono insieme. Allora chef, ci prendiamo un attimo un po' più leggero con te per parlare comunque di questo virus, Maria. Leggero fino a un certo punto, vero Davide? Perché io ho fatto una chiacchierata con un po' di ristoratori piccoli, no? Quelli che hanno 12 tavoli, quelli che hanno dei locali piccoli anche come dimensione. E sono alla ricerca di un futuro, di come trasformare la loro piccola azienda, perché dicono: io non posso distanziare i tavoli un metro dall'altro, perché sennò da quelli che ho me ne resterebbero meno della metà e non ce la faccio a reggere economicamente. Dunque, anche nel vostro lavoro bisogna pensare. Purtroppo dico, ma insomma, il Covid-19 costringe a pensare out of the box, a pensare con flessibilità? E come? Come potreste cambiare? Ma allora, io sono un cuoco della Prima Repubblica, della cucina, intendo dire, per cui un cuoco che è stato abituato a pensare in una maniera un po' diversa. Cioè, per me il grande numero non è mai esistito per fare qualità, i ricavi li devi avere per la qualità che fai, per quei numeri che puoi fare. Il fatto di mettere ammassate le persone è arrivato leggermente dopo, cioè io parlo degli ultimi, secondo me, 15-20 anni, dove fai una cosa, parti a vedere com'è stato trattato l'aperitivo, il vecchio aperitivo italiano con gli happy hour, quindi cibo tutto esposto, maltrattare il cibo a costo dei coperti, dei numeri che tu devi mettere in un bar, in un ristorante o in un'attività commerciale del genere. Per cui secondo me si tratta solo di un esame di coscienza che uno si debba fare e per quello poi adeguare l'azienda. Se nell'Italia vi voglio ricordare che è un paese che in alcuni settori, io posso parlare del mio, il 5 di marzo sentendo dei fornitori dove non avevano pagate le fatture, non venivano pagate le fatture da parte di alcuni ristoratori che erano di gennaio e di dicembre, perché dicevano che il coronavirus aveva colpito loro. Il 3 di marzo, io dico 5 di marzo, quando era proprio l'inizio della notizia che girava. Per cui queste cose qui bisogna prenderle un po' con le pinze, bisogna fare attenzione alle fake news che ci sono in giro, probabilmente queste qui sono un po' meno di esposizione mediatica, però se qualcuno può ce la butta dentro, perché a questi signori che fanno così bisogna anche dire che le fatture di febbraio, per rispetto dell'artigiano, del contadino che ti porta la roba, del fornitore che ti fornisce, di gennaio, di febbraio, vanno pagate. Allora, sì. Davide, adesso magari torniamo. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì. Adesso torniamo un attimo sulla questione dei coperti, perché c'è qualche ascoltatore che già ci scrive e dice: vabbè, insomma, se io ho bisogno di fare più coperti per fare soldi, questo è un problema. Però questo passa allora, anche naturalmente. La misura dell'approccio al nostro lavoro, del se faccio tanti coperti stampivi, se no chiudo, è errato proprio l'approccio a questo lavoro. Cioè tu devi sapere che tot metri quadri puoi mettere 20 persone, devi fare con quelle 20 persone i ricavi e gli utili per poter mantenere quella tipologia di locale che tu hai in affitto, sì. O hai in, però serve anche a quello un'altra cosa che io non vedo nel mio settore. Bisogna, quando si semina, raccogliere un po', conservare in cascina. Sì, però permettimi una cosa Davide, questo ci porta un po' sul tema, no, di come cambia la ristorazione, di come cambieranno i ristoranti, di come cambierà anche, non lo so, banalmente il servire, la distanza tra i tavoli, perché tu puoi anche far pochi coperti, ma magari uno spazio non particolarmente grande, eccetera, eccetera. Insomma, è un tema questo, no? Perché se questa cosa veramente, come dicevamo, cambierà tutto e cambierà la società, ebbene, cambierà anche come andremo in un ristorante. Ma no, ma sicuramente cambierà, anche perché noi mangiamo, per cui il ristorante potrebbe essere una fonte importante per poter stare bene e vivere, perché il cibo è quello che ci fa vivere. Però, ripeto, dobbiamo prendere un po' con le pinze, anche perché il dopo nessuno l'ha mai vissuto, perché nessuno ha mai vissuto il Covid. Cioè nessuno è mai stato dentro una pandemia del genere. Per cui l'unica cosa che secondo me era già scritta, posso portarvi un altro esempio, il fatto che adesso ci sia segnalato che le mani vadano lavate tante volte, che vada sanificato, che si debba cambiare vestiti, eccetera. Queste cose qui, io sin quando ero piccolo, e credo anche voi, quando entravi in casa la mamma la prima cosa diceva: lavati le mani, sanifica. Questo è già stato scritto, poi probabilmente ce lo siamo dimenticati e adesso ci troviamo a scoprire che bisogna lavare le mani. Ma queste cose erano già scritte, non è che adesso nelle cucine saranno i sanificatori, le mani verranno lavate, i guanti li useremo. Cioè queste cose nella mia cucina c'erano già e le cucine di molti altri colleghi che io conosco c'erano già. Per cui bisogna solo attendere, non farsi prendere dal panico, perché la prima cosa che io, così mi piace dire, essere un po' più ottimisti e positivi rispetto a una cosa che non conosciamo, cioè farla giocare come vuole, stare a guardare e poi muoversi in maniera tale che uno possa capire. perché adesso veramente fare dei programmi fa pensare delle cose per un qualcosa che non esisteva, non va bene. Sicuramente nel mio ristorante, che non ci sono mai state neanche prima, quelle famose tavolate che per me erano 9-10 persone, che neanche la gente mi chiedeva ma non volevo, e sicuramente le tavolate nei ristoranti andranno bandite, perché per ovvi motivi, uno, per sicurezza e distanza, ma la cosa più importante che doveva esserci anche prima è che noi andiamo a tavola con più persone per convivialità, per cui la convivialità vuol dire parlare, e invece abbiamo sempre fatto grandi tavolate dove nessuno, con l'uno da una parte e l'altro dall'altra, non riuscivano a comunicare, per cui comunicavi con i tuoi 3 o 4 a te vicini, per cui secondo me ci... Davide, posso farti una domanda su una scelta che molti ristoratori, i più piccoli, diciamo, hanno già cominciato a fare in queste settimane, vale a dire preparare il cibo e poi farlo portare a casa. Secondo te questo potrebbe essere, vuol dire, un modo per aiutare tante piccole imprese familiari che devono appunto pagare l'affitto, ricominciare ad avere qualche dipendente che ora invece è stato licenziato? Quindi il futuro, perché almeno sul breve periodo, potrebbe essere questo? Perché è stato licenziato il dipendente? Cioè noi perché siamo il proprietario dice non ho più soldi per pagarlo perché ho il ristorante chiuso da un mese, questo è quello che dicono. No, dico va bene, cioè ognuno si rispetta, è la cosa. Cioè, in America è uscita una cosa a New York dove il giorno dopo che hanno chiuso i ristoranti per Covid, hanno chiesto di raccogliere soldi ai clienti per mantenere a casa i dipendenti che il ristoratore ha licenziato. Allora, in Italia c'è una possibilità di fare una cassa integrazione dove io mi sono informato, quello che non arriva a fare la cassa integrazione per i miei ragazzi arriverò io con una parte di integrazione, con l'integrazione totale. Però per quello che stavi dicendo, cioè bisogna prendere tutto con le pinze. Io sul delivery del cibo pronto sono contro, nel senso che se la mia cipolla caramellata dovesse essere portata a casa tua, sicuramente cambierebbe l'atteggiamento del gusto e tu la mangeresti in un'altra maniera e poi la mangeresti quasi riscaldata. Allora sono più d'accordo su un tipo di delivery, di portare a casa una materia prima fresca, cioè voglio dire la pasta, la carne, la frutta, la verdura, cioè, sono più d'accordo su una tipologia di prodotto del genere che su un piatto cucinato, perché anche lì bisogna fare attenzione, perché tutti i passaggi No, ti volevo fare un'ultima domanda perché siamo veramente in chiusura, è questa. No, tu hai il tuo ristorante particolare, un ristorante stellato, ovviamente hai un tipo di guadagno, un tipo di costo, eccetera, eccetera. Secondo te questa cosa potrebbe portare alla fine della ristorazione popolare? No, anzi, io il popolo uso come popolano, però sicuramente sarà una riconferma di quello che l'Italia sapeva fare anche prima, cioè quello della accessibilità al cibo. Cioè io parlo magari anche di una cucina, di una sana e buona cucina che possa essere una trattoria rinnovata, che possa essere un qualcosa che faccia parte della nostra tradizione. Allora, grazie a Davide Oldani, grazie chef, ciao. Grazie a voi, in buona giornata. Buona Pasqua. In bocca al lupo per tutto. Cara Maria, ci risentiamo martedì alle 8:20. Sì, auguri a te Simone e a tutti i nostri ascoltatori e a tutta la grande squadra che tu adesso andrai a citare. A denunciare. Carmelo Lauricella in regia, oggi Miriam Lucchetti in assistenza, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza in redazione, Margherita Ina e Francesco Ceraffo i nostri autori. Buona Pasqua a tutti e buona anche Pasquetta. Ci risentiamo martedì alle 6:30. Ciao.